Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto. C'era una finestra aperta con uno stereo e seppi subito che cosa fare. La musica mi venne in aiuto. A pronunciare queste parole non è una persona a caso, ma il folle e musicofilo Alexander Delarge, controverso protagonista di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, film fantapolitico che nell'ormai lontano 1971 scrisse una pagina fondamentale della storia dell'immagine in movimento, e non soltanto di quella. Anche la storia del sonoro, infatti, deve molto al visionario capolavoro di Kubrick. Una pellicola interamente poggiata su un'invadente colonna sonora, capace di spaziare dalla Gazza Ladra di Gioacchino Rossini a Singing in the Rain di Gene Kelly, passando naturalmente per le corroboranti sinfonie di Ludwig van Beethoven. In Arancia Meccanica, la musica non si limita ad essere accompagnamento, ma diventa sostanza della narrazione, pilastro sonoro su cui il regista costruisce meticoloso i suoi deliri visivi. L'udito, specialmente al cinema, è importante tanto quanto la vista. Ad affermarlo non è un uomo qualunque, ma George Lucas, il responsabile di tutto quel fantastico progetto che ha rivoluzionato il mondo del cinema sotto diversi aspetti e che prende il nome di Guerre Stellari. Il sonoro in un film costituisce il 50% dello spettacolo. Lucas, fondatore della Industrial Light and Magic, che si occupa di tecnologie applicate al cinema, sostiene che quando si sta sprofondati nelle soffici poltrone e coccolati dal buio avvolgente di una sala cinematografica, il suono giochi un ruolo perfino più importante di quanto si possa immaginare. E la storia del cinema, a dire il vero, conferma in pieno questa linea di pensiero. Memorizzate bene questa data, perché è fondamentale per iniziare a sviscerare l'argomento di oggi, 6 agosto 1926. Fu proprio in quel torrido giorno d'estate di 85 anni fa che al Warner Theater di New York fu presentato al pubblico il primo film ad avere un sonoro tutto suo, Don Juan di Alan Crosland. Il regista americano fu il primo a utilizzare il sistema Vitaphone sviluppato da una società del gruppo Bell, la Western. Attenzione però, perché Don Juan era sì un film sonoro, ma non parlato, in quanto conteneva solo musica e qualche altro sporadico effetto audio. Fu necessario attendere ancora 6 mesi per assistere alla proiezione della prima pellicola dotata di veri e propri dialoghi, realizzata sempre col sistema Vitaphone. Il film, indicato su tutti i manuali di storia del cinema che si rispettino come l'indiscusso punto di partenza della cosiddetta era del sonoro, è il cantante di jazz, nuovo esperimento di Alan Crosland negli affascinanti territori dell'audio, presentato al pubblico il 23 gennaio 1927. E questa è in definitiva la vera data da cui partire nel nostro viaggio alla scoperta delle infinite magie percepibili con il nostro orecchio. Il sistema Vitaphone, che sostanziò la struttura audio delle prime pellicole sonore della storia del cinema e fu il primo vero sistema usato commercialmente nei cinematografi, utilizzava una speciale macchina da proiezione collegata meccanicamente con un giradischi che viaggiava a 33 giri al minuto, assicurando l'audio per ben 300 metri di pellicola. Se il Vitaphone è stata la primissima tecnologia applicata al sonoro cinematografico, col passare degli anni e il progredire degli studi in materia, si sono susseguite molte altre tecniche di diffusione audio. Oggi vi raccontiamo la vicenda di uno degli uomini che hanno scritto la storia del sonoro non solo al cinema, ma anche negli stereo di casa vostra. Il suo nome, anzi il suo cognome, già da solo, è sinonimo di qualità audio, o meglio ancora di alta fedeltà. Stiamo parlando di Ray Dolby. Ray Dolby. Portland, nello stato americano dell'Oregon, nel 1933, è poco più che un paesone se si pensa che, dopo tutto, è stata fondata solo un centinaio di anni prima. È proprio qui che nasce Ray Dolby in un gelido inverno del 33, così freddo che i genitori scelgono molto presto di lasciare l'Oregon e di trasferirsi più a sud, dove il clima è più clemente e gli inverni sono meno lunghi e rigidi. La scelta della famiglia Dolby cade sullo stesso asse longitudinale, quello della costa ovest degli Stati Uniti, ma a una diversa latitudine. Dall'Oregon ci si sposta nella calda, assolata California. Ray trascorre la sua infanzia e frequenta le scuole a San Francisco, a cavallo tra gli anni 30 e 40, decennio quest'ultimo che vede spirare forti venti di guerra. Ray è solo un ragazzino quando scoppia il secondo conflitto mondiale. Troppo piccolo per essere arruolato, il giovane Dolby contribuisce e rende onore al suo paese applicandosi con passione e dedizione agli studi. Frequenta la Sequoia High School di Redwood City, cittadina affacciata sulla baia di San Francisco e situata in quella che a partire dagli anni 70 verrà identificata da tutti come Silicon Valley. E questo è il nome coniato nel 1971 dal giornalista Don C. Hoefler, che viene usato per indicare la parte meridionale della San Francisco Bay Area. La zona viene ribattezzata Silicon per la storica, fortissima concentrazione di aziende legate alle tecnologie, e in particolare ai software e ai semiconduttori, tutti prodotti basati sulla lavorazione del silicio. Un luogo davvero speciale, che già alla fine della Seconda Guerra Mondiale, almeno un paio di decenni prima dell'avvento dell'era dei computer, brulica di opportunità e di promesse in campo tecnologico. Il posto ideale per un giovane acuto e intraprendente come Ray, e lui stesso a ricordare quel periodo. Nel 1949 sono stato abbastanza fortunato da trovare un lavoretto estivo nella piccola Ampex. È lì che mi sono reso conto di come funzionasse davvero il mercato. Mi aveva assunto il fondatore dell'Ampex, un signore di nome Alex Poniatov, che in qualche modo mi prese sotto la sua ala protettiva. Il mio compito era quello di riprodurre i primi nastri di calibrazione del primo registratore Ampex, il modello 200. Nel 1949, la Ampex Electric and Manufacturing Company è una neonata azienda fondata sulle prime ceneri del secondo conflitto mondiale proprio da Mr. Alexander Poniatov, ingegnere elettrotecnico di origini sovietiche, venuto a cercar fortuna nella Land of the Free, come recita l'inno nazionale americano, la terra dove ogni sogno di gloria e ricchezza è possibile. Il nome Ampex è un acronimo creato dal suo fondatore e sta per Alexander M. Poniatov Excellence. Durante la guerra, l'Ampex è una piccola fabbrica di motori elettrici e generatori. Ed è solo in seguito, grazie all'intraprendenza e al fiuto di Mr. Poniatov, che diventa una delle prime aziende a occuparsi di tecnologia proprio lì, in quella che è destinata a diventare la celeberrima Silicon Valley. I collaboratori di Poniatov cominciano a investigare, su precise indicazioni del loro capo, sul comportamento delle onde radio e di svariati meccanismi elettrici ed elettronici, a partire da alcuni esperimenti effettuati dai tedeschi in tempo di guerra. Il primo ritrovato tecnico prodotto dalle menti degli ingegneri della Ampex è un registratore a bobina, l'Ampex modello 200, nato per rivoluzionare le tecniche radiofoniche e di registrazione. Quanto costava il modello Ampex 200? $4,000 nel 1949 sono l'equivalente di $31,000 di oggi. Vi immaginate a spendere tutti quei soldi su un singolo nastro oggi, nel XXI secolo? Impensabile. E comunque all'epoca era l'unico modo per ottenere quel risultato. Sapete chi è stato fra i primi ad affrontare quel genere di spesa? Bing Crosby. Voleva cambiare radicalmente il modo in cui la sua trasmissione radiofonica veniva prodotta, usando il montaggio di nastri tagliati anziché usufruire sempre della diretta. Ray Dolby era solo un adolescente, ma ricorda alla perfezione quando nel 1948 la ABC, uno dei grandi network radiofonici e ben presto televisivi americani, utilizzò un modello 200 per la prima trasmissione registrata su nastro di The Bing Crosby Show. Bing Crosby, che allora era la star più brillante del panorama radiofonico statunitense, non amava fare trasmissioni dal vivo e per questo chiese ai vertici della ABC di concedergli di pre-registrare i suoi spettacoli su dischi acetati. Dopo il successo della prima trasmissione così concepita, la registrazione diventa una prassi e Bing Crosby in persona decide di investire ben $50,000 nella Ampex, appoggiando svariati progetti. Ray Dolby è entusiasta di lavorare in quell'ambiente e il suo percorso di studi intanto procede a gonfie vele. Si iscrive alla facoltà di ingegneria prima della San Jose State University e poi del prestigioso Ateneo di Stanford, ma non ha nessuna intenzione di smettere di lavorare. Mentre andavo all'università ho continuato a lavorare all'Ampex per 15 ore a settimana, anche durante le vacanze. Tra il 1949 e il 1952, la Ampex Corporation dà modo a Ray di lavorare a svariati progetti inerenti a strumentazioni audio sempre più sofisticate. Quest'ottima palestra, unita al suo talento naturale, non può che rivelarsi un investimento destinato a dare molti, moltissimi frutti. Gli sforzi della Ampex e di Ray Dolby nel migliorare le tecnologie e la qualità dell'audio delle trasmissioni radiofoniche prendono una nuova piega quando negli anni del boom fa capolino nelle case americane un nuovo oggetto, una sorta di parallelepipedo delle meraviglie. Ci riferiamo naturalmente alla televisione. A parlarci di questa rivoluzione è Johan Allen, storico collaboratore di Ray Dolby. Negli anni 50 hanno fatto la loro comparsa nuovi segni di interesse nei confronti del sonoro. La gente iniziava ad avere i primi televisori in bianco e nero nei salotti e quindi l'industria cinematografica si è sentita in dovere di migliorarsi per competere in termini qualitativi. Con l'avvento della televisione, la società e i mezzi di comunicazione subiscono un nuovo scossone e parte la corsa inarrestabile al costante miglioramento delle tecnologie in uso. Sull'onda del prestigio conseguito negli studi e grazie al suo operato alla Ampex, Ray Dolby si trasferisce in Inghilterra all'inizio degli anni 60 per conseguire un dottorato a Cambridge e poi spostarsi negli anni immediatamente successivi in India in qualità di consulente tecnico per le Nazioni Unite. Ma la figura di consulente tecnico, per quanto prestigiosa, se svolta presso un celebre ente internazionale, non basta a Ray per soddisfare la sua sete di scoperte e invenzioni. Lui è nato per quello, non per cooperare al raggiungimento degli obiettivi altrui. Dopo la parentesi indiana, Dolby torna in Inghilterra ed è qui che si apre il capitolo più esaltante della sua già brillante carriera. Nel 1965, a Londra, Ray fonda i Dolby Laboratories. E questa è la sua strada, quella di essere un pioniere, un inventore, un fautore del proprio destino, oltre che di quello di milioni di altre persone. Già perché le invenzioni di Ray Dolby cambieranno molte cose, e non solo su un piano strettamente tecnologico. Le sue scoperte avranno molto più a che fare con l'approccio quotidiano di quanto ci si aspetterebbe da un cervellone del suo calibro. Johan Allen ricorda l'approccio creativo e innovativo tipico di Dolby. Il suo cervello frullava continuamente e trovava soluzioni inaspettate, geniali. Ray è sempre stato uno abituato a non accontentarsi, ma a cercare di spingersi un po' più in là, ad alzare continuamente l'asticella. Diceva, è così, alzando l'asticella, che si compiono imprese mai compiute e si inventano cose mai inventate. Riprendendo gli studi e gli esperimenti effettuati qualche anno prima in materia di trasmissioni audio presso la Ampex, Dolby, nel 1966, mette a punto un sistema professionale per la riduzione del rumore, che da sempre era la bestia nera delle riproduzioni audio analogiche. Il nuovo metodo di eliminazione del fruscio, come viene definito dai tecnici, prende il nome di Dolby A, in onore ovviamente del suo acuto inventore. Il Dolby A è creato appositamente per essere destinato alle società discografiche. Prima dello sviluppo dei sistemi audio digitali, avvenuto alla fine degli anni 70 con la nascita del Compact Disc, grazie alla joint venture tra due colossi, Sony e Philips, tutta la produzione audio dall'acquisizione fino al missaggio utilizzava supporti di registrazione basati su nastro magnetico. A quei tempi, il disco in vinile, già dotato di microsolco, era piuttosto rumoroso e le case discografiche avevano bisogno di sistemi di alta qualità per riversare e rimaneggiare le molte tracce acquisite in sala di incisione. Aggiungere rumore a rumore nei missaggi, infatti, avrebbe portato a incisioni scadenti e poco appetibili da un pubblico già smaliziato e indirizzato ormai inesorabilmente verso il mito dell'alta fedeltà. Ray Dolby, col suo omonimo sistema di riduzione del fruscio, riesce a ridurre il rumore anche di 20 decibel oltre la soglia dei tipici 60-65 decibel cui aspiravano i migliori sistemi magnetici ancora sprovvisti del nuovo Dolby A. un successo travolgente. Una tecnologia mai sperimentata prima, nata tutta a partire da un'intuizione. Separando le registrazioni in due canali distinti, uno forte e uno debole, Dolby aveva immaginato che si potesse togliere il rumore di fondo senza intaccare la chiarezza di voci e melodie. E così è stato. A Londra, i dirigenti della Decca Records, che giusto una manciata di anni prima si erano fatti sfuggire l'occasione di mettere sotto contratto niente meno che i Beatles, non hanno nessuna intenzione di ripetere lo stesso errore con Dolby. Rimangono talmente folgorati dai risultati del sistema Dolby A che si accaparrano tutta l'attività produttiva dei Dolby Laboratories per la durata di 6 mesi interi. In quel lasso di tempo la Decca registra decine di sessioni in studio con risultati davvero spettacolari. Ray Dolby è entusiasta, ma non per questo si placa la sua sete di nuove scoperte. È vero, è riuscito a reinventare il silenzio, ma questo non gli basta. Nuove grandi sfide lo attendono proprio dietro l'angolo. Destini incrociati. Destini incrociati a Londra, nella sede dei Dolby Laboratories fondati da Ray Dolby, ingegnere appassionato di tecnologie e dedito alla ricerca di nuove esaltanti sfide tecniche. Nel 1965 ha ideato un rivoluzionario sistema di riduzione del rumore di fondo, il cosiddetto fruscio, che da sempre disturbava le incisioni su nastro magnetico. Il Dolby A rappresenta una novità straordinaria per le case discografiche, felici di poter innalzare la qualità audio dei propri prodotti. Ma ormai, nel settore delle riproduzioni audio, non si tratta più soltanto di cambiare la storia della diffusione sonora su larga scala, a livello per così dire industriale. La questione ormai riguarda direttamente milioni di consumatori presi uno ad uno. Si avvicinano gli anni 70, è quasi giunta l'era dell'alta fedeltà. Dovete sapere che la creazione di una grande compilation, così come una separazione, richiede più fatica di quanto sembri. Devi iniziare alla grande, devi catturare l'attenzione. Allo stesso livello metti il secondo brano, poi devi risparmiare cartucce inserendo pezzi di minore intensità. E sono tante le regole. Comunque, ho iniziato a pensare a una cassetta per Laura. Conosco i suoi gusti e cercherò di farla felice. Quello che avete appena sentito è un monologo del protagonista di Alta Fedeltà, film tratto dal celebre romanzo di Nick Hornby, interamente costruito sull'ossessione musicofila di un giovane inglese. Dopotutto, anche il mito della cassettina, la compilation di brani da regalare alla ragazza di turno per conquistarne le grazie, è un tardo figlio della corsa tecnologica, che sul finire degli anni 60 spinge gli esperti del settore a cercare nuove soluzioni per i consumatori e i fruitori di audio, non più soltanto per le aziende che quello stesso audio lo producono. Uno di questi esperti del settore risponde al nome di Henry Close. Henry Close. Close è il fondatore di un'azienda, la KLH, che rappresenta un punto di eccellenza nel campo della riproduzione audio. La KLH, fra le altre cose, produce altoparlanti di altissima qualità. È ovvio che Close abbia ben presente il lavoro di un collega del calibro di Ray Dolby. I due si conoscono, si stimano, al punto che Close, esaltato dall'idea di collaborare con l'inventore del Dolby A, gli propone di unire le forze. Ce ne parla Ian Allen, vicepresidente dei Dolby Laboratories. Tutto quello che Dolby aveva creato fino a quel momento si chiamava A-Type Noise Reduction, o più comunemente Dolby A-Type. Ma scommetto che molti di voi si ricordano anche del Dolby B-Type, ovvero del sistema consumer, creato appositamente per l'uso quotidiano. Il Dolby B NR, dove NR sta per Noise Reduction, è un'evoluzione del Dolby A, utile a migliorare la qualità dell'ascolto casalingo. Viene infatti installato su molte apparecchiature di registrazione e riproduzione domestiche, basate generalmente sul sistema di musicassette Compact Cassette. La rivoluzione in tutte le case, in tutti gli impianti stereo, a portata di tutti. E questo, quello che Dolby e Close vogliono e riescono a ottenere. We all do what we can. But if you want money for people with minds that hate. Nobody was bother, you have to wait. È stato grazie ai consigli e alla spinta del collega Henry Close che Ray Dolby ha deciso di diffondere in ogni casa americana e non solo i benefici del suo sistema di riduzione del fruscio. Facciamo un passo indietro e andiamo a conoscere il percorso che ha portato Close a diventare il coprotagonista dell'epopea dell'alta fedeltà. Il percorso di vita e di studi di Henry Close sembra non essere troppo diverso da quello del suo futuro alleato Ray Dolby. Nato nella provincia americana, e più precisamente ad Altoona, nello stato della Pennsylvania, Close eccelle fin da giovanissimo nelle materie di carattere scientifico. È così bravo che riesce a superare la dura prova di ammissione al famosissimo MIT, il Massachusetts Institute of Technology. L'ateneo migliore del mondo se si parla di ricerca scientifica. Lo studio lo appassiona, ma a dire il vero, Henry sente subito l'esigenza di mettere in pratica tutte le nozioni che apprende, piuttosto che ammonticchiarle quasi fossero trofei in una vetrina. È per questa ragione che, anziché terminare l'università, Close preferisce mettersi subito in gioco. A parlarcene è ancora una volta Johan Allen. Si assomigliavano, Henry e Ray. Erano due agitati. Avevano l'argento vivo addosso, come si suol dire. Uno ha studiato ingegneria, l'altro fisica. Le loro teste erano piene di nozioni complesse, ma tutto quello che volevano era riuscire a metterle in pratica al più presto, senza lasciare decantare troppo i colpi di genio cui erano continuamente soggetti. Nel 1954, insieme al suo vecchio insegnante del college Edgar Vilcher, Henry Close fonda la AR, Acoustic Research Corporation. L'unione dei loro brillanti ingegni consente di sviluppare un modello di altoparlante innovativo che prende il nome di AR-1. Si tratta del primo diffusore acustico commerciale a sospensione che utilizza un contenitore a tenuta d'aria proprio dietro al cono di emissione. Se il modello AR-1 si rivela meno efficiente degli altoparlanti tradizionali in termini di consumo di corrente elettrica, può però vantare dimensioni davvero ridotte e una riproduzione acustica eccellente, caratterizzata da un bassissimo livello di distorsione. Questa prima esperienza nel settore della diffusione sonora porta molti frutti, anche in termini economici, e Close sa bene in cosa reinvestire i suoi soldi, in nuove, esaltanti frontiere tecnologiche. Dalle iniziali del suo cognome e di quelli dei suoi nuovi soci, Malcolm J. Lowe e Anton Hoffman, Henry Close fa nascere a Cambridge, nel Massachusetts, la KLH. È qui che vedono la luce alcune tra le più importanti creazioni della carriera di Close. Tra queste c'è la KLH Modello 8, una delle prime radio FM di piccole dimensioni ad alta selettività. A metà degli anni 70, la Florida KLH viene venduta alla Singer Corporation e Close rimane in azienda per un breve periodo, contribuendo allo sviluppo di nuovi altoparlanti e nuove sofisticate strumentazioni audio, come il primo giradischi dotato di tecnologia dello stato solido, il KLH Modello 11. Nonostante le soddisfazioni professionali ottenute con la KLH, Close è sempre in cerca di nuovi stimoli. Close era molto orientato ai bisogni della gente. Era uno che aveva studiato, cosa che non tutti avevano avuto la fortuna di fare a metà del secolo scorso, ma voleva che quel suo privilegio si traducesse nella pratica in idee che migliorassero la vita di tutti. Una radio, un giradischi, oggetti alla portata di chiunque. Ed è da questa voglia che nasce la collaborazione coi Dolby Laboratories. È proprio Close a convincere Dolby a sviluppare la versione B del suo già celebre sistema per la riduzione del rumore di fondo nella riproduzione dei nastri magnetici. Nasce così il Dolby B, destinato in modo specifico al mercato dell'elettronica di consumo. La prima incursione del Dolby B nelle case dei consumatori avviene in virtù di un registratore a bobina prodotto proprio dalla KLH, il modello KLH 40. Il successo è immediato e la tecnologia viene migliorata con altre due versioni, il Dolby C e il Dolby SR. Nel corso degli anni, l'inarrestabile diffusione di impianti per la riproduzione del suono via via più sofisticati porta alla decisione di mettere ordine nella dilagante diversificazione delle soluzioni tecniche adottate dai vari costruttori, stabilendo norme meccaniche e parametri elettrici standard in conformità ai quali, una volta per tutte, un apparecchio può fregiarsi dell'etichetta di Hi-Fi. E non è certo solo il mondo dell'audio e della musica a guardare con estremo interesse a queste innovazioni tecnologiche. L'audio è unanimemente considerato di fondamentale importanza nel mondo del cinema. Perciò, in termini di ingegneria del suono, credo che noi della Dolby possiamo dire di aver fatto egregiamente il nostro lavoro. Stavolta è il cinema a chiedere a gran voce un passo avanti nella tecnologia del suono. Da decenni ormai non siamo più davanti a una semplice sequenza di immagini in movimento e Ray Dolby è ansioso con le sue invenzioni di imprimere una svolta decisiva anche alla settima arte. Destini incrociati. Destini incrociati ha appena assistito alla nascita del Dolby B, rivoluzionario sistema di riduzione del rumore di fondo inventato da Ray Dolby su indicazione del collega Henry Close. Un ritrovato tecnologico in grado di cambiare per sempre la storia della percezione del suono. Il Dolby B si impone come accessorio in tutti i registratori, videoregistratori e impianti stereo del mondo, aprendo a Ray Dolby la strada che lo porterà a perfezionare il Dolby Surround e il Dolby Digital. Dolby è fondamentale per via della sua lunga storia nel campo dell'innovazione sonora e per essere stato parte della leggenda del sonoro al cinema, dall'evoluzione dello stereo fino all'avvento del cinema digitale. Parola di Gary Rydstrom, esperto responsabile del missaggio e del montaggio delle tracce sonore de La minaccia fantasma, quarto capitolo in ordine temporale, ma primo in ordine ideale, della celeberrima saga di Guerre Stellari. Il suono, infatti, ha un'importanza capitale, anche quando si sta seduti al cinema. Ray Dolby lo sa bene e sa anche che l'industria cinematografica, ormai da diverso tempo, viaggia nella direzione di un costante miglioramento della qualità sonora dei propri prodotti. Ce ne parla Johan Allen, vicepresidente dei Dolby Laboratories. Si sono resi conto che non potevi avere delle immagini cinematografiche di quelle dimensioni senza un suono che le supportasse veramente. Ed è per questo che si sviluppò il cosiddetto four-track magnetic process. Un canale di sinistra, uno di centro e uno di destra provenienti dal retro dello schermo, uniti ad un singolo canale di surround alle spalle dello spettatore. Allen si riferisce all'era del cosiddetto CinemaScope, il sistema di ripresa cinematografica basato su lenti anamorfiche utilizzato dal 1953 fino a quasi alla fine degli anni 60. Lo schermo del CinemaScope era due volte più grande rispetto a quello normale e fu in grado di regalare agli spettatori degli anni del boom un'esperienza cinematografica davvero indimenticabile, grazie anche all'aggiunta di un supporto sonoro adeguato. Ma la tecnologia, si sa, è implacabile. C'è sempre bisogno di nuovi e freschi stimoli e c'è bisogno di uomini che siano in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico via via sempre più smaliziato. È per questo che a partire dal 1974 Ray Dolby si dedica al miglioramento del sonoro cinematografico adattando la tecnologia del suo sistema Dolby anche alla pellicola e non più soltanto ai nastri audio. Negli anni 70 i grandi formati cinematografici stavano morendo e la competizione tra il cinema e la televisione si faceva di nuovo agguerrita con l'avvento dei televisori a colori ed il fatto che la gente nel proprio salotto diventava via via sempre più esigente. Quindi l'industria cinematografica doveva rispondere in qualche modo a questo fenomeno. È proprio questa situazione che a metà degli anni 70 ha dato vita al Dolby Stereo. Il Dolby Stereo, oltre alla riduzione del rumore, aggiunge ulteriori canali audio in più rispetto ai tipici due della normale stereofonia. Ora c'erano cinque canali dietro allo schermo e sembrava come se il suono provenisse da una voce sola indistinta se ci aggiungevi anche il canale alle tue spalle. E io volevo inventarmi qualcosa di meglio. Il nuovo passo nella storia di questa tecnologia arrivò nel 1977 con un piccolo film chiamato Guerre Stellari. L'effetto che il Dolby Stereo produce sulla platea degli spettatori è sconvolgente, come ricorda Johan Hallen. Ricordo che me ne stavo lì seduto in sala e guardavo gli spettatori mentre la prima nave spaziale faceva il suo ingresso al di sopra delle loro teste, proprio all'inizio del film. Sentivo il frastuono di quei motori fantascientifici e insieme sentivo le loro voci dire «Oh mio Dio», proprio mentre la navicella passava in volo radente sopra di loro. Assistere a quella scena era un piacere incommensurabile. Il passo successivo nella tecnologia Dolby è riuscire a ottenere canali stereo totalmente pieni e saturi sia a destra che a sinistra. E Apocalypse Now di Francis Ford Coppola è uno dei primi, anzi il primo film in assoluto, a beneficiare di questa nuova ulteriore tecnologia. Apocalypse Now è davvero l'antenato, il bisnonno, in un certo senso, di quello che noi oggi troviamo praticamente in ogni film che vediamo al cinema e in ogni DVD, che si chiama Suono 5.1. Tre canali dietro lo schermo, un surround di destra e uno di sinistra alle spalle e un subwoofer che rappresenta quel punto uno. È buono, vero? Senti com'è buono? Cosa? Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Avanti, avanti, avanti! Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria. Certo, il sistema Dolby 5.1 non consente di sentire l'odore di vittoria, ma certo promette di ascoltare alla perfezione tutto il resto. Negli anni 90 si assiste all'avvento dell'era digitale e Ray Dolby non può non raccogliere la sfida. Gli ingegneri dei Dolby Laboratories mettono a punto il sistema Dolby Stereo Digital, successivamente rinominato Dolby Digital. Se all'inizio questa nuova tecnologia ha poca fortuna perché è totalmente incompatibile con le precedenti e richiede l'acquisto di apparecchiature dedicate, è con l'arrivo sul mercato della tecnologia DVD video che il sistema Dolby torna nuovamente ad essere leader. Attualmente il Dolby Digital è adottato in pressoché tutti i sistemi audio video, a partire dai semplici DVD fino alla TV digitale e al Blu-ray disc. Un vero e proprio standard, insomma. Anzi, di più, uno status symbol. Oggi c'è un sacco di gente che tiene il volume troppo alto perché vuole far sentire ai suoi vicini che razza di home theater si è fatto nel salotto. E non era questo l'intento dei registi e dei produttori cinematografici. Forse non è l'intento di registi e produttori cinematografici, ma certamente è l'intento di Mr. Ray Dolby. E non è da tutti mettere il proprio cervellone al servizio delle ossessioni hi-fi da salotto di milioni e milioni di persone. Dopotutto, dall'uomo che è stato in grado di inventare il silenzio, ci si aspetta questo ed altro. I go to these places.